Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Sono scomparse la classe operaia e la piccola borghesia, dice l'Istat nel suo rapporto annuale. Aumentano le disuguaglianze. Nuove ombre su Trump. Come il licenziato dal ruolo di capo dell'FBI riferisce di pressioni perché interrompesse le investigazioni sui rapporti con la Russia. Intercettazioni sul caso Consip, lo scontro resta alto, Renzi ribadisce, intercettazioni pubblicate contro la legge. Gentiloni incontra Putin in vista del G7, dal quale Mosca è esclusa, rapporti eccellenti, dice il presidente del Consiglio. Calcio, la finale di Coppa Italia tra Lazio e Juve in arrivo, mentre il mondo del tennis celebra Fognini, che ieri a Roma ha battuto il numero uno, Murray. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, alle notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, c'è anche la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, dalla quale andiamo in diretta video e quindi, se vi rimane la curiosità, potete anche vederci oltre che ascoltarci. In apertura parliamo del rapporto annuale dell'Istat, ci colleghiamo con la nostra Alessandra Schepisi, che ne ha seguita la presentazione. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, arriva anche quest'anno per la 25ª volta il racconto dell'Istat sui cambiamenti economici e sociali del nostro paese, ma cambia la chiave di lettura perché cambia la nostra società più frammentata e con una perdita di identità, non più le tradizionali classi sociali ma segmenti trasversali, le disuguaglianze si accrescono anche per la crisi, ma ciò accade all'interno delle stesse classi e delle stesse professioni. È per questo che l'Istat ha introdotto per la prima volta nove nuove categorie attraverso le quali tentare di leggere la realtà, ma chi è che se la passa meglio e chi peggio? Sicuramente peggio le famiglie a basso reddito con stranieri, un reddito di oltre il 40% al di sotto della media, ma spesso con un titolo di studio elevato, è il gruppo più colpito dagli effetti della crisi. Male anche il gruppo delle anziane sole e giovani disoccupati, 4 nuclei su 10 sono a rischio povertà. Meno colpite invece le famiglie degli operai in pensione, età media della persona di riferimento 72 anni e titolo di studio di licenza media. In particolare, poi dice l'Istat, le donne lavorano meno degli uomini, ma il gap nelle posizioni più elevate è minore. Molto è cambiato, scrive l'Istituto di Statistica, ma molto si è cristallizzato. L'ascensore sociale, ad esempio, rimane bloccato. Sentiamo su questo il presidente dell'Istat, Giorgio Alleva. Certamente abbiamo anche quest'anno visto quanto le sorti delle persone dipendono dalle famiglie d'origine e quindi quanto ereditarietà ci sia nelle posizioni anche sociali delle persone. Abbiamo anche individuato quali sono gli elementi che possono consentire di transitare da gruppi più fragili agli altri. Il titolo di studio è un elemento fondamentale, naturalmente la posizione al mercato del lavoro. E certamente l'azione dello Stato può fare molto sia sul tema del sistema formativo sia sul mercato del lavoro. Rimane anche il divario nord-sud e rimane l'Italia un paese di anziani. Gli over 65 sono il 22% della popolazione, la percentuale più alta d'Europa quest'anno, infatti battiamo anche la Germania, invecchiano anche gli stranieri. Prima l'età media era 31,1, ora è 34,2. E da Roma è tutto. E grazie dunque anche ad Alessandra Schepisi per questo aggiornamento. Siamo alla vicenda americana, nuove ombre che si addensano su Donald Trump. Dopo aver ammesso di aver condiviso con la Russia informazioni top secret che secondo il New York Times sarebbero state fornite da Israele, gesto che potrebbe anche indurre i paesi dell'Unione Europea ad interrompere lo scambio di notizie riservate con gli Stati Uniti, Donald Trump è nuovamente travolto dallo scandalo in seguito ad altre indiscrezioni sul suo operato. Sempre secondo il New York Times, infatti, il presidente americano avrebbe chiesto nel febbraio scorso a James Comey, quando quest'ultimo era ancora capo dell'FBI, di chiudere le indagini su Michael Flynn, il consigliere la sicurezza nazionale travolto dal Russia Gate. Un'ostruzione alla giustizia smentita dalla Casa Bianca, ma che se fosse provata potrebbe anche avvicinare l'ipotesi di un impeachment. Ora il presidente della Commissione di Vigilanza della Camera, il repubblicano Jason Chaffetz, ha chiesto all'FBI di consegnare tutti i documenti e le registrazioni delle comunicazioni fra James Comey e Donald Trump. I democratici parlano di grave abuso e Chuck Schumer, il loro leader in Senato, avverte: la storia ci sta a guardare. Per i repubblicani, invece, sempre più divisi, si avvicina il momento della verità. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ulteriori aggiornamenti, commenti, analisi, come sempre alle 13.45 con America 24 di Mario Platero. Noi veniamo adesso alla politica italiana, che ci porta su due fronti. Il primo è ancora una volta la vicenda dell'inchiesta Consip, le intercettazioni pubblicate dal Fatto Quotidiano ieri che riguardano una conversazione tra Matteo Renzi e il padre Tiziano Renzi, e una polemica politica che continua a montare su tutto questo. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Il caso Consip e la legge elettorale sono i due fronti su cui si scontra Matteo Renzi. Dopo la rivelazione dell'intercettazione della telefonata con il padre, il segretario PD interviene di nuovo oggi, ricapitolando, scrive: le intercettazioni sono illegittime, vengono pubblicate violando la legge. Emerge un quadro in cui un figlio dice al padre: devi dire la verità. E il padre risponde: quello che ti sto dicendo è la verità. Ma i 5 Stelle attaccano, e anche Pierluigi Bersani, che dice: c'è un groviglio di relazioni che si è trasferito nel cuore del sistema. Altro capitolo, la legge elettorale. Il relatore in Commissione Affari Costituzionali, Mazziotti, ha ritirato ieri sera il testo base del cosiddetto Italicum bis per la contrarietà del PD. I Dem puntano a un nuovo Mattarellum, 50% dei seggi è proporzionale e 50% maggioritario, ed è in forse la stessa presidenza della commissione che potrebbe passare ad Emanuele Fiano, proprio del PD. A te, Simone. Grazie dunque anche ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Si diceva che c'è un altro fronte, che è un fronte più puramente parlamentare, è quello che riguarda il DDL sul reato di tortura, che è andato al voto al Senato non senza qualche polemica. Sentiamo. Arriva tra le polemiche il via libera dell'aula di Palazzo Madama alla legge che introduce nell'ordinamento italiano il reato di tortura. I voti a favore sono stati 195, 8 i contrari, 34 gli astenuti. Il testo torna ora in quarta lettura alla Camera. Tra gli astenuti c'è anche il presidente della Commissione diritti umani, il democratico Manconi, che ha deciso di non votare il provvedimento da lui stesso presentato perché stravolto da troppi emendamenti. Tra le novità introdotte al Senato c'è l'aumento della pena minima da 3 a 4 anni, mentre la massima resta fissata a 10. È anche precisato che non si prefigura il reato di tortura se le sofferenze sono causate unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Una modifica chiesta dal centrodestra per mandare un messaggio rassicurante alle forze dell'ordine. Viene infine escluso il riconoscimento di qualunque forma di immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per tortura in un altro Stato o da un tribunale internazionale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso spostiamoci in Russia, dove è in visita il presidente del Consiglio Gentiloni. Sentiamo il racconto dell'inviata del Sole 24 Ore. L'incontro di oggi a Sochi tra Vladimir Putin e Paolo Gentiloni è da guardare nella prospettiva del summit del G7 a Taormina a fine mese, a cui la Russia non potrà partecipare perché esclusa, dato che il G8 nel 2014 è tornato G7. Dunque, per portare la voce di Mosca sui temi della Siria, della Libia, della lotta al terrorismo, Putin confida nell'Italia, il paese europeo che in questi mesi le si è mostrato più vicino. E l'auspicio dell'Italia è che questo ruolo privilegiato si possa trasformare in un ombrello non decorativo sul fronte economico-commerciale, nel momento in cui l'economia russa da segni di ripresa senza aspettare la fine delle sanzioni. È importante dimostrare che è possibile tradurre l'immagine di due paesi vicini a livello governativo in cooperazione economica ed energetica, ed è questo il senso degli accordi che verranno conclusi oggi a Sochi. Magari non grandi annunci, ma importanti perché mirati, perché coinvolgono piccole e medie imprese che hanno bisogno dell'aiuto delle istituzioni per arrivare ai grandi gruppi in un paese complesso come la Russia. Accordi importanti anche perché guardano alla formazione di tecnici che poi possono restare legati all'Italia, alle sue tecnologie, oppure perché guardano al di là dell'export e si propongono di arrivare a localizzare attività in Russia. Quindi non accordi, non un impegno per il breve termine. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore, Sochi. Questo è il quadro dalla Russia. Nel frattempo è in corso la conferenza stampa di Putin e Gentiloni. Vi sapremo aggiornare più avanti, o nel corso di Effetto Giorno, o all'interno dei GR sulle frasi che diranno i due leader. Intanto, una notizia che è stata appena battuta dalle agenzie, che arriva dagli Stati Uniti riferita in realtà dalla BBC nella fattispecie, ed è questa: come nelle attese, Chelsea Manning, l'ex soldato condannato per aver passato informazioni segrete a WikiLeaks, è stato liberato oggi dopo aver scontato 7 anni di prigione. Lo ha annunciato lo stesso esercito americano. Questa la notizia appena arrivata dagli Stati Uniti. Sta facendo discutere parecchio la marcia prevista per sabato a Milano, intitolata Insieme senza muri e dedicata al tema dell'accoglienza di immigrati, profughi e richiedenti asilo. Ci saranno migliaia di persone, comprese persone del mondo dello spettacolo, sindaci dei comuni della cintura milanese, politici, centrodestra e Lega fortemente contrari, così spiega l'iniziativa l'assessore milanese Pierfrancesco Maiorino. Città Milano che si prepara domani tra l'altro ad accogliere il ministro dell'interno Minniti proprio per parlare dei temi dell'immigrazione. Dunque sentiamolo intervistato da Valentina Furlanetto. Ci auguriamo che siano presenti alcune cariche dello Stato, ma poi saranno prese rappresentanti decine di comuni. Si parla di modello Milano. Domani il ministro dell'interno Minniti sarà nel capoluogo lombardo per parlare con alcuni sindaci, ma Milano è anche la città dove c'è stato il blitz in stazione centrale nei confronti dei migranti abusivi e anche la città dove un ragazzo del Mali si è impiccato. Qual è la vera Milano? Io in realtà sto sempre molto attento a parlare di modello Milano perché sono un po' delle trappole queste formule retoriche. Sicuramente poche città hanno fatto come noi 124.000 inserimenti in strutture d'accoglienza in questi anni e questo lo rivendichiamo con orgoglio. Sono anche poi convinto del fatto che abbiamo bisogno di robustire l'accoglienza diffusa. In questo quadro l'incontro invece di domani tra diversi comuni nell'area metropolitana milanese è un bel passo avanti. Cambiamo decisamente argomento, andiamo a parlare di cinema perché si apre questa sera il Festival di Cannes. Abbiamo in studio con noi la nostra Marta Cagnola. Marta, ciao, eccoci. Eccoci, allora possiamo subito dire che è un festival di un cinema nuovo, perché non solo proiezioni classiche, ovviamente vabbè, di livello altissimo, ma anche realtà virtuale, produzioni del web, serie TV d'autore. Il vecchio sistema cerca di resistere perché dal 2018 il festival accetterà solo film con anche una distribuzione in sala, ma ci sono i colossi Netflix e Amazon, ci sono due film animati, c'è l'installazione multimediale di Iñárritu già totalmente sold out. Allora, Amazon ha Wonderstruck di Todd Haynes, tra i film più attesi del concorso, invece Netflix ha due film in concorso, uno di Bong Joon-ho e l'altro di Noah Baumbach, insomma attesissimi. Allora, tra gli eventi, due serie TV, ovviamente ne parlano tutti, il ritorno di Twin Peaks di David Lynch 25 anni dopo e Top of the Lake di Jane Campion con Nicole Kidman. Si apre però questa sera con la tradizione. Allora, la cerimonia con Madrina Monica Bellucci, il film fuori concorso sarà Les Fantômes d'Ismaël di Arnaud Desplechin, cioè la gloria nazionale francese, ma anche qui la gloria nazionale francese, dicevamo Marion Cotillard, ma anche qui un'italiana, Alvaro Orvacher. Alla serata partecipa la giuria al gran completo guidata da Pedro Almodovar con giurato anche qui un italiano, vanno fortissimo gli italiani a Cannes, Paolo Sorrentino, ovviamente però grandi misure di sicurezza, metal detector all'ingresso del Palais du Festival, barriere antisfondamento sulla strada, controlli approfonditi, insomma è il primo festival di Cannes del dopo strage di Nizza. A te Simone. E grazie dunque alla nostra Marta Cagnola che lascia lo studio mentre siamo in attesa di Carlo Genta che dovrebbe raggiungerci tra un attimo, lo vedo da dietro te il vetro. Te lo vado a prendere io. Vado a prendere per fare il punto sulla giornata sportiva. Intanto io vi do un'altra notizia che è stata battuta adesso dalle agenzie e che era una notizia anche questa in parte attesa. La Commissione Europea ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia per violazione delle norme europee sull'omologazione degli autoveicoli, in particolare per quanto riguarda le emissioni. L'Italia ha 2 mesi di tempo da questo momento per chiarire se su alcune vetture di Fiat Chrysler sono stati usati i cosiddetti defeat devices illegali, ossia dei software che truccassero, dei device che truccassero appunto i risultati dei test di omologazione, oppure no, e se sono stati presi rimedi sufficienti per le auto in circolazione. Siamo dunque allo sport con Carlo Genta che mi ha raggiunto in studio. Carlo, hanno visto gli ascoltatori il cambio da basket tra me e Marta Cagnola? Sì, perché sono anche qua in diretta appunto, su Facebook diretta, quindi, anche tutti convocati in diretta su Facebook sul sito di Radio 24. Oh, cambio come sport che conosci bene, da sì, ex giocatore, esatto, proprio, uno entra e l'altro esce, e sì, sport ce n'è tanto perché sì. Questa sera l'attesa finale di Coppa Italia finalmente tra Juventus e Lazio. Senti, facciamo una cosa, caro. Prima di parlarmi del futuro, parliamo del passato, perché è così bella la serata di ieri, no? Per Fognini. Beh sì, Fognini è un giocatore che cioè avesse avuto la testa di Federer, probabilmente sarebbe stato stabilmente tra i primi 5 al mondo. Invece è un mattocchio di enorme talento che ieri, sempre a Roma, che sì, è caput mundi sportiva più che mai, ha battuto Murray, che non era in formissima, non era dato in formissima, però pur sempre il numero uno al mondo. 6-2, 6-4 in due set, eliminato Murray. Fuori anche la Sharapova, che abbandona gli internazionali, a Parigi non sarà ammessa, dunque un rientro molto difficile, sì, per la regina di ghiaccio. Come prevedibile, forse, come prevedibile. Regina di ghiaccio del tennis mondiale. Senti, dunque il futuro che poi è molto prossimo, perché stasera è questione di ore 21 per la precisione. Dunque c'è la Juventus che deve cominciare a mettere le mani sui trofei. Il campionato rimandato proprio a Roma domenica scorsa, e stasera sempre a Roma con la Juventus che è rimasta lì in loco, giusto per santificare questa città che è caput mundi sportiva più che mai, contro la Lazio. Partita difficile secondo me per i bianconeri, che non hanno la formazione che siamo abituati, perché Khedira viene tenuto in freezer per la finale di Champions League, ha problemi fisici, gioca Marchisio che pure non sta benissimo, per questioni di equilibrio Rincon e non Quadrado, poi tutto il resto è ovviamente confermato con la formazione che conosciamo bene. Per quanto riguarda la Lazio, ormai Keita ha scavalcato nelle gerarchie Felipe Anderson, è una Lazio molto solida, e dunque la Juventus deve stare attenta per mettere le mani, deve giocare una grande partita per mettere le mani su questo primo trofeo stagionale, poi vediamo. Allora, grazie Carlo. Dunque ti ritroviamo alle 14 in tutti i convocati, anche quello in diretta Facebook, così come siamo in diretta video su Facebook. Qua qualche ascoltatore ci chiede, in realtà è un ascoltatore che ce lo fa tutti i giorni, chiede: ma avete notizie di Igor? Beh, oggi ne parliamo, ci ritorniamo, perché sono 39 giorni. Igor il russo, l'uomo Igor che nelle campagne, killer. che stanno cercando nelle campagne, è anche scattato un piano che si chiama Piano K, a quanto pare, ma ne parliamo tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. 349-238-6666 per i messaggi, e per i messaggi anche su WhatsApp. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati del rapporto annuale dell'Istat, delle nuove ombre che calano su Donald Trump, delle intercettazioni sul caso Consip che fanno molto discutere, dell'incontro tra Putin e Gentiloni, come avete sentito anche di cinema, col Festival di Cannes che apre questa sera, di una partita importante, cioè questa sera, quella che assegnerà la Coppa Italia. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia, e prima di andare, come promesso, alle cronache dalle campagne nelle quali continuano le ricerche di Igor, nelle quali viene trovato un casolare dove probabilmente è stato lui, l'ha usato come rifugio per qualche giorno, andiamo a Milano, dove ieri è tornato di prepotenza all'Università Statale un tema che torna a far discutere, ed è il tema del numero chiuso per l'accesso all'università, per l'accesso alle singole facoltà. Alla Statale di Milano, su 79 corsi tra triennali e magistrali a ciclo unico, soltanto 9 non prevedono prove selettive per l'accesso, e per alcune di queste 9 ieri si è pensato di far scattare il numero chiuso. Era riunito il senato accademico, hanno fatto irruzione gli studenti nel senato accademico, impedendo sostanzialmente di deliberare su questo tema. È un'idea questa voluta dal rettore Gianluca Vago, e da quel che abbiamo capito gli stessi dipartimenti, che poi sono dipartimenti umanistici prevalentemente, sono contrari. Abbiamo in linea con noi Alessandro Zucchi, direttore del Dipartimento di Filosofia proprio all'Università Statale di Milano. Professor Zucchi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Allora, come mai lei è contrario al numero chiuso per l'accesso a filosofia? Sì, sono contrario, non solo io, ma anche tutto il mio dipartimento. Come mai? Dunque, si tratta di condividere una certa idea del ruolo dell'università pubblica. Io credo che elevare il livello di istruzione dovrebbe essere uno dei compiti del sistema di educazione pubblico, e quindi penso che per quanto possibile si dovrebbe cercare di evitare di introdurre misure di numero chiuso per quanto riguarda le lauree triennali, poi, perché non dimentichiamoci che quando queste lauree sono state introdotte, con l'idea che mettendo il primo livello di laurea a 3 anni si favoriva l'ingresso di più persone. Sì. E si aumentasse il numero di laureati. Cioè lei, per esempio, potrebbe essere favorevole a fare la triennale aperta e la biennale a numero chiuso, cioè indipendenza da come esci dalla laurea triennale e dalla qualità che puoi dare in un eventuale test d'ingresso, puoi fare la biennale oppure niente, scordatelo. Ci potrebbe stare, secondo lei, Zucchi? No, per livelli di laurea superiori tutto si può discutere, cioè il dottorato è ovvio che deve essere a numero chiuso, la laurea biennale dovrebbe essere una laurea insomma in cui si può prendere in considerazione questa misura, ma per la laurea triennale non ha alcun senso. Qualche ascoltatore dice i professori con cattiveria, io gliela giro come arriva dall'ascoltatore, dice i professori sono contrari perché perdono cattedre. Ha capito il senso dell'osservazione, no? Cioè dice se fai il numero chiuso c'è bisogno di meno professori, sostanzialmente, no? Detta molto brutalmente. E se invece lo lasciamo aperto ci daranno più professori? Fino ad ora non è successo così. Comunque, per rassicurare questi ascoltatori, c'è una considerazione da fare ed è questa. Spesso si obietta al numero aperto dicendo se c'è il numero aperto la qualità è minore, la qualità dell'insegnamento decresce. Ora, che io insegni per una classe di 150 persone o per una classe di 300 persone, il contenuto del mio insegnamento non cambia. Quello che può cambiare naturalmente è la possibilità degli studenti di interagire con me. Ma per fare questo non è che è necessario assumere dei nuovi professori, sarebbe sufficiente avere un sistema di tutor in supporto al corso, come si fa negli Stati Uniti, e i costi sarebbero irrisori per gli atenei. È quello che. Allora, forse i costi dei tutor sì, professore, ma i costi delle strutture no, perché più allarghi il numero di persone che si iscrivono e più hai bisogno di strutture ampie, ma anche semplicemente per questioni di, no, di norme sanitarie. Sì, certo, ma insomma, però voglio dire, non è che la statale non abbia strutture adeguate per accogliere, e comunque se ci fosse qualche problema, perché noi stiamo facendo lezione di fatto con un numero molto alto di studenti, quindi non stiamo facendo lezione in situazioni appunto di emergenza in cui mettiamo in pericolo la vita degli studenti, quindi se poi si creasse un problema di questo genere, si tratta di volerle fare le cose, ci sarebbero tante possibilità, coinvolgere la città. Guardi, noi andiamo a fare delle conferenze adesso, quando esco di qui vado a introdurre una conferenza al Museo di Storia Naturale organizzata dal Dipartimento di Filosofia nella Aula Magna del Museo di Storia Naturale. Abbiamo fatto dei laboratori al Castello Sforzesco, stiamo facendo dei laboratori nel carcere, abbiamo un'apertura verso la città e penso che se si dovesse porre un problema di struttura, cosa che per il momento non si sta ponendo, dovrebbe essere possibile interagendo con la città. Professore, le chiedo un'ultima cosa, è un'altra sollecitazione che arriva da un ascoltatore, è sempre al 349-238-6666 e se volete potete scrivere. No, è brutale la sollecitazione e io gliela esplico. L'ascoltatore dice: e se invece abbiamo studenti fuori corso di 10 anni è utile? Cioè, come dire, insomma, è vero, facciamo il numero aperto, poi però ci vogliono anche regole più rigide probabilmente per gli studenti fuori corso, insomma, una persona ci mette 5 anni, 6 anni a fare una laurea triennale, non è utile per se stessa e probabilmente no, nemmeno all'interno dell'università ha un senso che ci stia, o no? Beh, allora, distinguiamo. Da un lato potremmo lasciare il numero aperto e avere un momento di selezione dopo il primo anno di università, se nessuno Se una persona si iscrive e poi non dà neanche un esame, no, a questo punto la sua iscrizione potrebbe decadere. Mm. Ma dall'altro bisogna anche considerare un altro aspetto. Noi abbiamo, è vero che noi abbiamo un numero di fuori corso più alto, insomma, di altri corsi di laurea non umanistici, ma bisogna anche considerare che spesso gli studenti che si iscrivono a corsi di laurea come filosofia, lettere, storia, spesso non sono studenti che prendono questi corsi come corsi professionalizzanti, che, per cui sì. Poi se prendono un corso di laurea in filosofia poi vanno a fare il filosofo. Quello che accade è che questi studenti, magari molti di loro hanno già un lavoro e lo fanno per passione. Non solo. Sì, è chiaro, devi mettere delle regole precise, però... Le dico un'altra cosa, quando io insegno, spesso c'è un drappello di persone di una certa età che è andata in pensione e che per passione vuole studiare filosofia. Questa è una funzione sociale che andrebbe riconosciuta. La gente che, i giovani che fanno filosofia, ma intanto già lavorano, la fanno per passione, magari ci mettono più tempo, intraprendono un processo di trasformazione che è importante per loro, è importante per creare dei cittadini più consapevoli, per avere una democrazia migliore, per avere gente che quando vota vota in modo più informato, in modo critico. Anche quando diciamo il numero delle persone che sono fuori corso, dovremmo tenere conto. Bisogna, lei dice, tener conto di molti aspetti. La ringrazio, grazie Alessandro Zucchi, direttore del Dipartimento di Filosofia alla Statale di Milano, per essere stato con noi. E torna da noi Daniele Predieri, cronista della Nuova Ferrara. Daniele, ciao, bentornato, eccoci. Ciao, buongiorno a tutti. Dunque, come promesso agli ascoltatori, a quelli che ogni tanto ci scrivono e ci dicono dov'è Igor, parliamo di Norbert Fehr, l'assassino del barista di Budrio e l'assassino anche di una guardia ecologica che si continua a cercare con un grande dispiegamento di uomini e mezzi. È stato, da quel che abbiamo capito, trovato un rifugio nel quale lui si potrebbe essere fermato per parecchi giorni. Daniele, ho capito bene? Ma i rifugi sono diversi. Il problema serio è valutare se si tratta di rifugi recenti o passati. E ricordo a tutti che siamo al 39esimo giorno di ricerche, 39 giorni, con uno spiegamento di forze mai visto in campo. E tanto più che le polemiche di questi giorni poi si sono arricchite anche delle accuse alla stampa, alla televisione, alle radio, di coprire questo evento che su cui sarebbe stato romanzato, su cui sarebbero state inventate tante cose. Il problema è che ovviamente c'è stata una copertura mediatica perché questo fatto qui lo meritava. Quello è oggettivo, tant'è vero che noi continuiamo a starci sopra, ma anche per questo motivo, perché in realtà poi, Daniele, l'aspetto interessante, e gli ascoltatori lo sanno benissimo ed è il motivo per il quale ce lo chiedono, è il fatto che ci sia un uomo in fuga da 40 giorni in un'area specifica del territorio italiano, che ci sia un grande dispiegamento di uomini e mezzi e quest'uomo non si riesca a catturare. Cioè è una storia interessante non solo mediaticamente ma anche per i cittadini, insomma. Assolutamente sì, perché i cittadini hanno voglia di tornare alla normalità, una normalità che finora gli è negata, tanto più che, tanto per essere chiari, in questi giorni, dopodomani, venerdì, ad Argenta, che è il comune, diciamo così, dove gravitano tutte le ricerche, c'era questa attività, si chiama Argenta Bambini, con 900 bambini che avrebbero dovuto fare delle gite nelle valli, lì dove cercano Igor, e quindi l'effetto Igor ha di fatto vietato le valli ai bambini. È scattato quello che è stato definito, se non erro proprio sul tuo giornale, il piano K, così chiamato, piano killer. Piano K. Proprio è così, proprio perché lo hanno definito proprio i promotori, perché i promotori avevano ad esempio piani alternativi a seconda delle condizioni meteo, se c'era sole, se c'era pioggia, se c'era vento, e avevano anche il piano killer. Cioè, non è una, è una cosa che condiziona assolutamente. E certo, e la vita di tutta un'area del paese, per così dire. Sul fronte delle ricerche possiamo dire che sono ancora là tutti, e tutti sono sempre impegnati H24, come dicono le forze dell'ordine in gergo. Il problema è che è un lavoro importante da fare, ma non soltanto di ricerca fisica, che probabilmente gli errori sono stati fatti all'inizio con eccessivo ottimismo, si diceva lo prendiamo in pochi giorni, il cerchio si stringe, e questo ottimismo probabilmente ha creato delle aspettative che come vediamo sono state, diciamo, non ripagate, ecco. E comunque le persone che sono lì impegnate lo sono tuttora e stanno cercando di tutto. Ad esempio mi dicevano che c'è la catalogazione di tutti i furti possibili e immaginabili, anche le furti di uova. Viene chiesto di segnalare qualsiasi cosa, proprio per valutare, e tutti gli avvistamenti, anche se ritenuti, diciamo così, non credibili, vengono verificati appieno. Tre giorni fa, ad esempio, c'è stato un blitz sul ponte della Bastia, che collega, diciamo, la provincia di Ferrara a Ravennate. C'è stato il blocco della statale 16 per permettere questo blitz all'interno di un casolare dove c'era uno straniero che senza dimora. E che era la sì, poi tra l'altro c'è stato un avvistamento e poi si è appreso che era una signora in bicicletta. Insomma, diciamo, c'è anche un filo di psicosi, naturalmente, come è perfettamente naturale in questo momento. Allora, grazie intanto a Daniele Predieri, cronista della Nuova Ferrara. Io lo so che siete cattivi e quindi le battute su questa storia si sprecano. L'altro giorno qualcuno ha detto basta mandare Equitalia e lo trovano sicuro. Qualcun altro oggi ci scrive: ma i testimoni di Geova ancora non l'hanno trovato. E qualcun altro dice: se sono quelli che stanno cercando Igor sono gli stessi che stanno cercando Matteo Messina Denaro. Beh, anche questa non è male. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo. E poi ogni tanto una bella storia, un senza tetto che riceve una bella eredità e niente, e adesso si ritrova, come dire, con la possibilità di cambiare vita. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi. I nostri titoli: l'Unione Europea apre una procedura di infrazione contro l'Italia sulle emissioni di Fiat Chrysler, 2 mesi di tempo per chiarire se siano stati usati dispositivi illegali. Sono scomparse la classe operaia e la piccola borghesia, dice l'Istat nel suo rapporto annuale, aumentano le disuguaglianze. Nuove ombre su Trump, come il licenziato dal ruolo di capo dell'FBI, riferisce di pressioni perché interrompesse le investigazioni sul Russia Gate. Le intercettazioni sul caso Consip, lo scontro resta alto, Renzi ribadisce pubblicate contro la legge la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. A chiudere andiamo in Liguria, dalla quale arrivano due notizie. La prima riguarda, e facciamo un po' di servizio pubblico anche per coloro che si fossero dimenticati un biglietto del Super Enalotto in tasca, l'avessero comprato a Sestri Levante nella tabaccheria di Piazza Sant'Antonio 4, c'è 1 milione che vi aspetta e ancora non lo avete ritirato, quindi se siete passati di là, avete giocato al Super Enalotto, mi raccomando, fate un bel controllo. La Sisa l'ha avvertito, il 14 luglio si riprende i soldi, 1 milione di euro se avete giocato a Sestri Levante. Ma restiamo in Liguria per un'altra storia di soldi. Una bella storia, la storia di Gianni Di Rocco, 47 anni, originario della provincia di Teramo, dal 1994 clochard, una vita passata per strada con dietro solamente uno zaino. Gli arriva improvvisamente notizia che una zia di Teramo, che se n'è andata, gli ha lasciato una bella eredità. Ora, Gianni Di Rocco, che viveva a Rapallo, e per questo che dico che rimaniamo in Liguria, beh, è un po' emozionato in questo momento, non vuole parlare, gli sta facendo un po' da portavoce Carlo Bagnasco, che è il sindaco di Rapallo. Sindaco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno a Radio 24. Allora, come sta Di Rocco? Di Rocco sta bene, l'ho sentito stamattina un paio di volte, è tornato nella sua città dove aveva i legami della sua famiglia. Adesso mi hanno detto che era in un bar in piazzetta, poi ha parlato con il sindaco anche di lì, che festeggiava certo. L'avvenimento. Sì. Un ragazzo che conosco molto bene, perché era da 12 anni a Rapallo, da 2 anni che io faccio il sindaco a Rapallo, 2 anni e mezzo, era praticamente sempre sotto il comune, io lo incontravo tutti i giorni. Certo, naturalmente, magari ogni tanto una monetina, una cosa, sì, eccetera, sì, eccetera. Sì, un rapporto affettuoso con l'amministrazione, non solo con me, ma anche con i miei consiglieri, con i miei amici. Anche perché è una di quelle storie, no? Laureato in sociologia, poi il vizio del gioco, sì. Si rovina e finisce per strada sostanzialmente, questa è la sua storia. Finisce per strada, finisce a vivere nel comune di Rapallo, come residenza proprio, al Palazzo Comunale. Poi al sindaco, all'amministrazione non è che chiedeva niente di particolare dal punto di vista proprio istituzionale, come casa e tutto, si arrangiava praticamente, era sempre estremamente dignitoso, ordinato, dormiva in stazione e di giorno poi veniva in comune e quindi girava la città, lo conoscevamo tutti, ecco. Conosciamo tutti molto bene. Sì, ma non si sa quanto ha ricevuto di eredità ancora, no? No, la cifra si sa che è tutto vero, ho parlato con il sindaco e tutto, ma il testamento non è stato ancora aperto. Naturalmente sarà meglio di prima sicuramente, ecco. Rispetto allo stare in mezzo alla strada. Questo è assolutamente, sugli importi non è ancora prudente sbilanciarsi. Ancora non lo sappiamo. Allora, è emozionato, quindi si ricorda determinate cose, non se le ricorda, quindi bisogna aspettare un po'. Grazie Carlo Bagnasco, sindaco di Rapallo, ma prendetela bella così com'è questa storia. Qualcuno scrive, sì, ma se qualcuno gli presta i soldi per le tasse di successione col piffero che cambia vita, ma prendetela com'è, è una bella storia, è sempre così negativi, mannaggia. Traffico, Platero, ci sentiamo alla fine per i saluti.